Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast sulla stagione NBA 2017-2018 per Radio Big World. Allora, finali di conference in rampa di lancio, la tavola è ben apparecchiata, di protagonisti appaiono tutti pronti a battagliare per giocarsi la stagione in finale NBA. Quindi andiamo a vedere come rapidamente si è svolto il secondo turno, decretando le ultime quattro squadre destinate ad avere una chance di arrivare fino in fondo. Iniziamo a dare un'occhiata alla situazione della Eastern Conference, partendo ovviamente da Cleveland contro Toronto, e non possiamo far altro che ripartire da una domanda divenuta retorica nelle ultime nostre puntate: può LeBron James vincere una serie da solo? Lo avevamo già detto dopo le 7 partite contro Indiana, sì, evidentemente può vincerla, solo che mi ero spinto ad affrettare un parere immediatamente disatteso, sostenendo che non avrebbe potuto farlo in 4 gare, ma sicuramente in 7, prevedendo un nuovo epilogo fino alla sfida del vinci o vai a casa anche per la serie contro i Toronto Raptors. Ed invece mi sbagliavo, ed è solo il primo mea culpa che devo pubblicamente fare in relazione alle previsioni di secondo turno. Toronto infatti si è sciolta dopo appena 4 gare, non sostenendo evidentemente il secco 2-0 casalingo con cui la serie si è spostata alla Quick Loans Arena, dopo il quale si poteva già intravedere lo sweep che si è rivelato. Diciamo la verità, è ormai consuetudine partire dal presupposto che quando la squadra di James vince, molto spesso vince semplicemente LeBron, anche perché il sistema di gioco di Cleveland quest'anno più che mai è LeBron-centrico. Anzi, sostanzialmente l'unico sistema di gioco in cui James si è dimostrato adatto ad inserirsi nella sua carriera è quello in cui lui rappresenta il sistema di squadra. E questa è probabilmente la critica più netta che gli si può portare ad oggi. Chissà, magari con l'invecchiare cambierà volontà, difficile ad oggi considerando la sua onnipotenza. La serie contro i Raptors non ha fatto eccezione e sarebbe sufficiente citare i numeri del re nelle 4 gare concluse: 34 punti, 11 assist, 8 rimbalzi, una stoppata, quasi 2 recuperi di media con il 55% dal campo. Tra l'altro, al momento, numeri assolutamente in linea con le 11 partite di playoff disputate in una stagione stellare, probabilmente la migliore in carriera, dove evidentemente sarebbe oggi più che mai una bestemmia non premiarlo come MVP. Anche rispetto a questo cambio opinione ogni puntata, ma ogni volta che vedo James giocare mi convinco che non si può non premiare la stagione apice del giocatore più forte quantomeno di questa decade. Personalmente resto convinto del fatto che il supporting cast a LeBron James si è nettamente indebolito, probabilmente per suo volere, in seguito alla rivoluzione del mercato di metà stagione. Io credo che in chiave playoffs poteva essere sufficiente liberarsi di Isaiah Thomas per George Hill, ma che a livello di potenziale decisività nel singolo momento di postseason, Crowder, Wade e Rose avrebbero potuto dare di più per esperienza rispetto a Clarkson, Hood e Nance, quantomeno offensivamente. Nonostante questo, nella serie contro Toronto abbiamo visto rinascere proprio quel contorno che in quella contro i Pacers era apparso tremendamente insufficiente a sostegno del re. Kevin Love ha fatto registrare media attorno ai 20 punti e gli 11 rimbalzi per allacciata di scarpa, J.R. Smith attorno ai 12 punti per gara, un eroico Kyle Korver vicino ai 15 per partita, George Hill toccando realizzativamente la doppia cifra, Tristan Thompson risorgendo nel fare quello per il quale dovrebbe essere pagato. In tutto questo Nance e Hood offrono entusiasmo a sprazzi, il secondo più difensivamente che offensivamente, Jeff Green è rinato rispetto all'avvio di playoffs chiudendo con 12 punti per gara, Clarkson si è definitivamente adombrato a livello di importanza, ma qualche canestro ogni tanto lo mette. Insomma, attorno ad un James leggendario e non solo per il tiro della vittoria in gara 3, quello che di fatto chiude la serie, il secondo buzzer beater dei suoi playoffs, finalmente si è palesato il meglio possibile di un contorno, ed in questa rifioritura i meriti sono da imputare anche ed ancora a LeBron e alle sue capacità di trascinare compagni spaesati quando palesemente in difficoltà, provando ad inserirli nei momenti di partita in cui è lecito, per chiudere i match da solo quando arriva il momento giusto. Toronto chiaramente ha le sue responsabilità, anche se è chiaro che il colpo di perdere gara 1 in casa ed in volata non è stato digerito. L'ultimo tentativo di colpo di coda in gara 3, quello che avrebbe prolungato la serie, si è infranto con la clamorosa cavalcata in coast to coast del re con il canestro in corsa della vittoria. E rispetto a loro c'è poco da dire, se non che dopo una regular season impressionante la squadra si è dimostrata insufficiente mentalmente nel contrastare un minimo la squadra che la elimina per 4-0 per il secondo anno di fila. E forse c'è da pensare di ricostruire un progetto che, ripeto, era stato osannato a lungo con molti dubbi rispetto alle fasi decisive della stagione, che si sono confermati confermando i Raptors come squadra non da playoffs. Ne parleremo probabilmente in coda alla stagione, ma se Philadelphia, che ha disatteso quantomeno le mie aspettative, ha la scusante dell'inesperienza e della giovinezza, i Raptors no, o almeno non ce l'hanno più. Dicevamo l'altra semifinale di conference, quella tra Philadelphia e Boston. Situazione sostanzialmente simile, seppur si partisse da due certezze diverse. Boston era squadra costruita per attentare alla finale, che pur perdendo pezzi pregiatissimi per strada, ha dimostrato di sapersi reinventare e soprattutto amalgamare seguendo la linea tracciata da colui che non può che essere il coach dell'anno per quest'anno, cioè Brad Stevens. L'esplosione di Terry Rozier in questi playoffs, sostituendo lo sfortunato Irving, è solo l'ennesimo capolavoro prodotto dall'ex allenatore della Butler University. I 76ers invece erano squadra di belle speranze e limitata esperienza, reduce però da un finale di stagione fantasmagorico e da un primo turno di playoff schiacciasassi, tanto da averli ampiamente pronosticati potenzialmente vincenti contro gli sfortunati avversari. Anche qui faccio mea culpa, perché mi sono sbagliato di brutto. Mai sottovalutare l'orgoglio dei Celtics. In gara 1 e gara 2 i Sixers si sono dimostrati non pronti a contrastarne la potenza al TD Garden, mentre in gara 3 hanno dimostrato tutta la loro impreparazione, trovando il modo di perdere una sfida che il nostro Marco Bellinelli aveva condotto ai supplementari con un buzzer beater. Nelle palle perse, nei finali di regolamentare e supplementari, c'è tutta l'inesperienza di una squadra che ha però tutti i numeri per crescere ancora tanto, anche semplicemente mantenendo questo gruppo. Nel finale di All Horford per Boston, tutta l'importanza di un giocatore esperto e soprattutto capace di aspettare il momento giusto per decidere le partite ed in un roster che a lungo viene condotto dai giovanissimi Tatum, Rozier e Brown è un valore importantissimo. Gioelone e compagni hanno evitato lo sweep in casa in gara 4, stavolta non deludendo, ed appoggiandosi ad una coppia insolita quanto decisiva, quella formata da TJ McCallum e Saric. Tuttavia Boston ha dimostrato di piegarsi senza essere surclassata, a dimostrazione di una superiorità netta soprattutto mentalmente, certificata nella decisiva gara 5, alla conclusione della quale Boston si ritrova finalista di conference contro i Cleveland Cavaliers di LeBron James. Non era facile prevederli raggiungere questo traguardo, dopo una stagione piena di vicissitudini, ma un sistema di gioco importante, forte e determinato ha dimostrato di poter contribuire alla crescita di individualità, all'amalgamarsi dei giocatori, fino al raggiungimento di una solidità impressionante, alla quale manca davvero poco per non apparire da subito degna di una contender. Per quanto riguarda Philadelphia, l'eccessiva inesperienza ha determinato un'uscita comunque a testa alta. I Sixers saranno capacissimi di tornare con più certezze già dal prossimo anno, con il regalo Markelli Fultz, che sarà il vero nuovo acquisto alla seconda stagione, come oramai consuetudine per le ultime prime scelte assolute nella storia dei 76ers. Inoltre, ci sarebbero spazi per investire anche sul mercato, cercando tasselli mancanti da inserire, prospettive delle quali non mancheremo di accennare in futuro. Ma veniamo alla grande sfida per il titolo ad est, Boston contro Cleveland. Era finale di conference dichiarata da tempo, ad un certo punto resa dubbiosa dalle già citate assenze tra i Celtics. Il fattore campo a vantaggio della franchigia storicamente più vincente della Lega non è questione di poco conto, seppur contro un James tanto grande come lo abbiamo ampiamente descritto, chiamato a replicare imprese apparentemente folli per strappare l'ottavo biglietto di finale consecutivo in carriera. Considerando il percorso di questi playoffs e la forma con cui le due squadre giungono in finale di conference, il pronostico non è facilissimo. Io temo per Stevens che prima o poi la mancanza di Irving si farà sentire e quindi vado con Cleveland, ma come nella serie precedente, per i Cavs sarà decisivo vincere almeno una delle prime due gare esterne, altrimenti il rischio è di trovarsi in casa con le spalle a muro, un Supponikas demoralizzato ed un James potenzialmente ingabbiato nella difesa di Boston e nei suoi obblighi di trascinatore in gara 3. Guardando ad ovest invece, Golden State compie un passetto falso in gara 3 a New Orleans grazie al genio di Rondo ed una prova concreta della squadra guidata da Anthony Davis. Pur senza un carry strepitoso però riescono a tornare nella baia vincendo una gara esterna, quella gara 4 dove mentalmente e fisicamente i Pelicans sostanzialmente non sono scesi in campo, distrutti da un Kevin Durant chirurgico da 38 punti. Nella definitiva gara 5, nonostante Holiday e Davis, i Pelicans resistono due quarti, prendendo l'inevitabile imbarcata nel terzo e salutando così la stagione. I Warriors sono in tutto e per tutto la squadra più forte della Lega, che può vacillare per almeno tre volte solo contro Houston in apparenza, per almeno tre volte ho detto, e soprattutto considerando il vantaggio campo sfavorevole potenzialmente in avvio. Utah si era reinserita clamorosamente nella serie vincendo proprio in Texas gara 2, con una prova gagliarda ed un Joe Ingles ancora impressionante. Nelle due sfide a Salt Lake City però il sistema di D'Antoni, equilibratissimo nell'alternarsi al timone in campo di Harden e Paul, si è dimostrato nettamente superiore. Come già ampiamente visto nelle puntate precedenti, decisivo l'apporto di Clint Capela, anche e soprattutto come rim protector, un giocatore in crescita esponenziale che raggiunge in gara 4 di questa serie il suo apice in carriera. Ovviamente momentaneo, perché un totem tanto imponente quanto agile può continuare a fare il vuoto intorno a sé anche più avanti, anche contro i Golden State Warriors. In gara 5 per la verità, Clint Capela si vede il giusto, ed anche Harden non è troppo brillante, anche perché Chris Paul decide di salire sugli scudi, raggiunge la sua prima finale di conference in carriera con 8 su 10 da dietro l'arco e la bellezza di 41 punti, 10 assist, 7 rimbalzi con 0 palle perse, una prestazione da grandissimo interprete di questo gioco. Su Utah e i Pelicans c'è comunque da dir poco, perché malgrado tutto riescono a chiudere una stagione di successo senza l'umiliazione dello sweep contro le prime due squadre della Lega per consapevolezza e potenziale. I Jazz possono coccolarsi un Donovan Mitchell strepitoso, atteso al normale salto di qualità tipico del passaggio al secondo anno per un rookie, che potrebbe incoronarlo già tra gli All-Stars dell'anno prossimo. Attorno a lui il sistema è costruito benissimo, e dal suo crescere non può far altro che migliorare. La capacità di integrarsi di Ricky Rubio, la sicurezza sotto canestro di Rudy Gobert, gli inserimenti attorno alla nuova stellina del già citato Ingles, di Favors e di Crowder, tutti giocatori perfetti a svolgere compiti decisivi nell'arco di una stagione. Bisogna ammettere che è stato compiuto un lavoro splendido a livello societario e che le prospettive di questa squadra sono rose come non mai, seppur in un ovest competitivo e difficile. Stesso discorso per i Pelicans, che devono solo decidere cosa fare di Cousins e Rondo. Per quanto riguarda il primo, l'interrogativo è se offrirgli il massimo dei massimi e correre un rischio, oppure se lasciarlo partire con la possibilità di inserirsi prepotentemente nella free agency. Rispetto invece all'ex playmaker dei Celtics, per come la vedo io sarebbe capacissimo di guidare la squadra anche la prossima stagione, seppur con i suoi alti e bassi. Secondo me, a rifirmare di Cousins è naturale che resti, mentre se New Orleans decidesse di investire sul mercato, potrebbe anche cambiare casacca, considerando le eventuali alternative ottenibili anche con una trade in quel ruolo. Arriviamo infine al pronostico per quella che per molti è la vera finale NBA, quella tra Rockets e Warriors. Finalmente speriamo di vedere queste due squadre seriamente impegnate, fronteggiandosi reciprocamente in post-season, definendo quale delle due sia migliore dell'altra, una domanda che ci siamo posti a lungo in stagione regolare. Il vantaggio campo può essere un fattore, soprattutto per permettere un avvio entusiasmante ad Harden e compagni. Per quanto riguarda i ragazzi di Steve Kerr, l'obiettivo di raggiungere questo punto con la squadra al completo ed in forma sembra essere realtà, considerando le 4 gare di Curry precedenti all'avvio di questa serie, sufficienti per recuperare fiducia e confidenza in campo. Si tratta di una sfida tra due sistemi di gioco diversi, che fanno però dei tiri da dietro l'arco il punto forte della loro efficacia, quantomeno nel determinare i parziali decisivi con i quali sono soliti uccidere le gare. Malgrado questo, entrambe le squadre hanno storicamente dimostrato di essere in grado di determinare parzialoni killer infiammate e letali, ma anche di subire cali di concentrazioni capaci di favorire imbarcate al contrario. Questa potrebbe essere la chiave per una serie lunga e combattuta, che mi auguro possa offrire 7 appassionanti sfide. Le difese saranno indubbiamente decisive, e se i Rockets possono sfruttare l'importanza di Capela sotto canestro, dall'altra parte c'è necessità di limitare Harden e Paul nelle loro incursioni, contemporaneamente sostenute da un'efficacia perimetrale difficile da limitare. Detto questo, per caratteristiche hanno più possibilità i difensori degli Warriors di limitare gli attaccanti di Houston che quelli dei Rockets rispetto alla circolazione di palla e di tagli con direzione dietro l'arco di Thompson e Curry. Credo che Golden State sia una squadra più forte in definitiva, ma la condizione fisica può premiare una Houston che obiettivamente può contare in una panchina più lunga e talentuosa a livello di soluzioni potenziali. A mio avviso, in questa serie la gara decisiva sarà la quinta, alla quale le due squadre potrebbero arrivare in perfetto equilibrio a livello di inerzia e risultati, e la qual vincente potrebbe trovare la forza di chiudere il tutto addirittura in 6 partite volendo. In conclusione, il mio pronostico definitivo, chiaramente un pronostico porta sfiga considerando che ne sto azzeccando pochissime a livello di storia in questi playoffs, è Warriors in 7 partite, ma con molta fatica. Benissimo, l'appuntamento a un NBA Week è rimandato quindi a tra 7 giorni rispetto a quando ci state ascoltando, per parlare delle finali di Conference 2018, avvicinandoci al momento decisivo della stagione. Per tutti gli aggiornamenti nel caso potete dare un occhio alla nostra pagina Facebook, che si chiama proprio NBA Week. Per ascoltarci, se volete, ci trovate tutti venerdì sera su Radio Big World, tutti sabati mattina ospiti del canale YouTube di Belli 13 e tutte le domeniche pomeriggio su Radio Valdarno. Sembra inutile ripeterlo, ma stavolta ho deciso di farlo. Entrambe le radio citate sono web radio, però no, potete trovarci in streaming ed in podcast da scaricare nei loro siti. Ci risentiamo la settimana prossima quindi con NBA Week. Grazie a tutti per l'ascolto.